ciu. Beh, come va? Bene, bene. Per me sta ragione, Antonio, me ne sono andato. Era a Baia Sardegna. E mi sono rientrato. Già va bene, non ti va bene. Emilio, hai fatto a me un bel po' di soldi. E miliardi mi sono fatto. Cioè miliardi adesso, ma che cazzo un po' di soldi, ma per carità. Miliardi no, ma almeno quindi sa fare sì. Ma lascia perdere, Andone, non è così come pensate. Lascia perdere. Non è così. Ragazzi di Sassari. Io mi ringrazio pagare più a Sassari che in Chibi. Non tu vai andare a farlo Panattini. Quindi in pratica si è pagato male, no? 1200 euro al mese, più devi pagare tutto il resto, va? No? Ah, ma cosa 1200 euro al mese? Quanto è? 500, quant'è? 1300, ma facevi tu le di merda. Ah, vabbè, 1300, ma... Cazzo, scusa. Più c'è il vita alloggio. No, non è così. Tu ci vai a dormire cazzo in quattro in un numero locale. Se ti fidi cazzo non ti può mancare a pisciare. Ma lasciamo perdere, va. Senza finestre. Le finestre vanno al corridoio. Ma lasciamo buffone. Sei fortunato con Gian Giuseppe Leoncino qua. Ci hanno proposto a lui. Quindi eravate al limite in due. Ma infatti eravamo in quattro, non in due. Figurati, io hai visto che a un certo punto basta fare poi ti posso dire i filmati, mandarli in televisione, vedrai che le cose cambiano, te lo dico io. Lavorare così dice no, va bene cazzo, ce la fa. Preferisco che andare a prendere i pomodori. Ah, preferisco andare a fare gigolo. Lo so, ma cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così. La questione è quella, capito? Si stava vantando che hanno assunto un sacco di persone, a che cosa? A morire di fame. Oh? Pensa che la mia collega era con me, ha cambiato lavoro, lavora solo la mattina, dalle 8 e mezza alle 14:10, 1500 euro vita alloggio, ma gli ho dato una casa, sono in 5, una casa però. Ho capito, ma a casa, 1500 euro, vabbè, 500 euro partono immediatamente per, sono 1000 euro al mese, quindi 500 tra luce, acqua, gas, quello che è. Ma cosa si dice di buon po'? 1500 euro compreso vita alloggio, cosa si dice di? Ah, io avevo capito diversamente. Vita alloggio, ma che cazzo vado a fare 1000 euro? Ma che cazzo fuori? Qui sei in stagione, sei fuori casa. Capito? Ho capito, adesso sì, ma avevo capito che pigliava, cioè, più in pratica 500 euro per le spese di casa, hai capito? Tutto lì. No, poi vita alloggio mangiano lì, poi ovviamente se non ci vanno a mangiare te la compri tu il mangiare, fate la spesa a casa, ci c'è a casa. Però luce e acqua non le paghino, e tu compreso. Vabbè, là, cosa vuoi fare? La questione è quella, mi. Più di quello non ti danno, mi. Già lo sai anche tu. Lo so. L'arrabbiatore, hai visto quanto guadagna a casa? Anzi dice, lui, io do ai dipendenti 2000 euro al mese, mi ha detto. Così ha dichiarato. Per il resto, la pizza... costa 7.000 euro e lei sono soldi miei. Mi sono curiati anche la pizza. Vabbè, l'importante è che cazzo ti tombi cazzo, un bel po' di cazzo di quelle bagasse che ci sono a cosa, cazzo. Scusa, a un certo punto. Ecco, vanno tutti da lui. Ciu. Aspetta che sto cercando un coso. Se poter fanculo, aspetta. Ok, tutto a posto. Almeno posso fare la spesa. Tu cosa stai prendendo? Sempre quei soldi là? Sì, quelli sì. La verità sì. Ma come ti sto arrivando? Cosa un po'? 1, 2, 3, prova. Poi un po'? Quasi 9.30, sì. La radio è buona? Sì, ha voglia. Ci mancherebbe. Ok, da. Va bene. Ciu. Ora. Un po'. Eccolo qua. A posto. Mi dà la provocazione, mi. Tutto. C'è la propagazione quella la francese, ma invece l'altra quella russa. Ola. Ciu. Stai facendo il capo, Antonio, 140 c'è? Sì, 140 c'ho. Sistemato da me, no, dagli altri. Sistemato da me. Guardato dagli altri, ma sistemato da me. E cosa c'aveva? Non trovo neanche dire, perché se lo dico, cazzo, se mi si c'è cazzo la baracchina, è meglio stare zitto a un certo punto, capito? Quindi recuperare i pezzi da una parte all'altra e fare un 140 non va bene. Cos'è, sparito? Sì. No, sono qua, sto accordando la chitarra. Vabbè, se l'hai aggiustato, bravo. No, me lo sono riparato da sola, quindi a un certo punto la prossima volta che dovesse capitare una cosa del genere non me ne frega niente delle... prendo da fuori e basta, il discorso è quello. Quindi a un certo punto non me ne frega più niente. L'ho sistemato io, a spese mie, e quindi basta. Diciamo, sono radio vecchissime, molto vecchie. E sono radio che devo usare spesso e volentieri, se le lasci ferme, non è un baracchino. Allora, Antonio, io ho un iPhone. La paese iPhone, quello che ha un po' di canali. Se rimane fermo tanto tempo non esce il radio, una volta che scalda si riprende e funziona. Visto, a volte funziona, a volte no. Pazienza. CDC e si è a posto. CDC, cosa c'è da CDC se non esce il radio? Appunto, CDC. Sono in pratica le fermature, il discorso è quello lì. Tonello, non sarà manco lo smitter, piano piano su riscaldo inizia a salire e inizia a uscire via radio. Ci sono i condensatori in perdita. Vedi, attendo cosa ti ho detto, a volte capita così, sono in perdita. Ma mi sembra strano comunque. Comunque sia. E bene Natali, come va? Non tanto bene, no. Ancora non ho ricevuto il referto dell'attacco. Ok. Anch'io sono misto. Così. Stamattina ho in pratica consegnato tutto. faccio, vediamo cosa mi dicono fra poco e si vedrà cosa quanto mi danno e vedere quanto, perché a un certo punto mi ha detto l'avvocato va a fanculo. Lì. Ma dice hanno fatto la rapina di nuovo al tabacchino. E solo che il rapinatore ha bucato voci da Alessandra. Sì, lo so, me l'hanno detto. Mi ha detto Federico. Cioè mi ha detto la moglie di Federico, quello stava parlando con me, che è la zia. È la zia di lei. E questo tipo l'ha picchiato. Ma cos'era? Ha viso scoperto? No, viso coperto e armato pure, dice che era. Solo che gli dà reagire l'acuto. Altrimenti un rapinatore, ghiaccio. E lo hanno preso? Ci sono i carabinieri che stanno indagando. Ma tu gliel'ha preso almeno? No, ha pigliato nuda, no, l'acuto è dentro, si è fuggito. Scagliarito, ghiaccio. Brava, complimenti alla signora. È una di fuori, Emmy. Di Oristano è questa qui. Beh, se lo stanno, cazzo, non l'ho vista, scusa, a un certo punto. Ma, un po', ma, Natali, ma, questa è la seconda volta che gliela fanno. Eia. Prima aveva una guasta, vera. Chi c'è per da Zizzi, dai. Cazzo, ci da pure la roba, anche la cutuva oggi. Yes. Secondo me aveva la pistola di giocattolo quello, però, perché se no, cazzo, non fuggia così, non si va via così, si va via così, l'hai mai visto. Io penso che aveva la pistola di giocattolo, sicuramente. Quello è poco ma sicuro. E allora, cazzo, ti pare che uno si fa aggredire così, va a rapinare nei ciburicuti? Con la carella magari, no? Tu rimani la cutu, è una cavadona che da dipa. E ci sta fuori dal banco, deve essere la picchiato forte. Quindi figurati tu, poco. Allora manco impara ad andare a furare anche su dalla china, già la seconda che li va, zinimi. Sì, va bene, non so neanche. La carapenza, gira e gira. Allora, è meglio che si prendano come. Come si dice? Un arco elettronico, cazzo. Se si avvicina, cazzo, gli dà la scossa, vedrai tu. Ma cosa vuoi ti dica? Comunque ci sono i carabinieri che stanno indagando, vedrai che lo pizzicano chi è. Oltre il danno anche la beffa, cazzo. Vabbè, non è così facile come pensi tu, a fate bene. Ma di buio, ma andava a fura, vedi solo che andava a fura, se da bacchini andava a cacciare, senti macca blu, tu sono tossicomani, se non lo sanno niente, andava a fura, sono scimmiati e non vai da in faccia a nessuno. Magari era qualche tossicomane sicuramente, fa cosa no. Senza magari. Vabbè, vedremo gli sviluppi della situazione, se lo beccano. Adesso vediamo, per uno di questi giorni, se mi fa quella cortesia di quella penina famosa. Chissà, va bene da una da 8 giga. E io ce le ho già pronte qua, dai. Me ne porti una delle tue e finì dopo una mia già pronta. Ma io ne ho una da 8 giga. Andave. Sei sicuro? Lei se lì si parlerà solo. Eia. Va bene. A proposito di parlerà solo, in casa di morto di Sant'Ennina va. Così ti faccio vedere che il computer che mi ho costruito. Posso immaginare. Ciu. Tornato ci sei con questa col tiralastico, con questo ciucucciù. Certo che ci sono. Ah, è bello bene. Hai capito bello bene? Oh signore. Cazzo. Sto sempre a forza di bruffe insomma, Antonio. Ci ha messo una cosa, infatti. Antidolorifico, diceva quello, Buffer è quello. Cazzo, sto crepando, cazzo. Speriamo che mi arrivi questo attacco, così mi ricoverano. E mi fa zenichisso che mi deve ne va, sono a pezzi. Allora devo dire a pezzi. Lo so, ma se... già me lo immagino. Oh signore. Cocco. Oia. Casino Germania. Tutti tedeschi so. Io te l'appoggio. Allo. Più o meno, c'è bisogno di essere e più o meno, fino a un certo punto Red Bull diviso in due, più e meno. Non c'è veramente niente, hai capito? Non c'è niente, non si può fare così, non si può fare così, ok? Per tutto. Basta, a un certo punto basta, non me ne frega niente a me dei soldi, ok? Basta, tutto quello che c'è, basta, sparito tutto, basta. E che c'è, sapò? Ciao, stavo sperimentando un coso. Cazzo, a un certo punto cazzo, ti mettono cazzo, devi cazzo fare il coso, a un certo punto, basta, è finito tutto, cazzo, ce la fai cazzo, scusa, a un certo punto. Così ho fatto, che c'è in pratica quello che ti dice quando, tu devi fare così, tu devi fare quella, no, mazza, non me ne frega niente a me, poi finisce questa storia. Basta, perché la verità basta. Io me la sento così, poi se tu sei d'accordo sì o no, il discorso è quello, Luca. Ma cosa te l'ho fatto? Cioè, da farti pagare in pratica, capito? Questa storia del cazzo di essere, che tu devi cazzo, a un certo punto, se poi passi da normale, passi da un'altra parte, non va bene. Quindi a me di queste cose passare, cioè non mi fa bene la verità. Penso di essere forse l'unico una cosa del genere, da fare una cosa del genere. Decapitare questa storia qua, eccetera eccetera, e in pratica quando uno cazzo sbaglia, cazzo deve fare così, deve fare così, ma no. e sto facendo così. Adesso vediamo un po' cosa succederà. Cosa ne so io? Non ti capisco. Ho capito che tu mi capisci, il discorso è quello, infatti c'è anche ragione, perché a volte qualche ragazza o qualche ragazza che ha bisogno del coso, si mette in pratica, gli mettono cose in più, hai capito? E non va bene. Tutto lì. Siccome mi sembra logico tra me e me, forse tra me e anche gli altri, cioè in pratica, che una persona a casa possa quello che ha rubato, quello che bisogna condannarlo. No, assolutamente no. Il discorso è quello, hai capito? Non lo voglio dire, hai capito? Vabbè, sono condannato, lo vuol dire, ha fatto la monella. Beh, comunque sia, io ho fatto quello che volevo fare, poi non lo so, mi girano a un certo punto gli altri, non lo so. Comunque sia, io non posso condannare una persona che non è condannata a un certo punto, visto in cosa? Cosa ti posso dire? In America, cazzo, a un certo punto, ti picchiano, cazzo, non hai fatto un cazzo, ti picchiano, eccetera, eccetera, non hai fatto niente. Quindi a un certo punto è quello il discorso, solo per sentito dire, hai capito? Beh, saldo, cazzo, su che andiamo. Dimmi, ciao, dimmi tutto. Beh, cinco. Oh, e lui, vabbè. Tu dato me il gioco, non andi, non andi a trovare in galia. Ok, cosa è successo? Briaco, vai. No. C'era un moccioso che stava attaccando con me, un 22enne. Me ne volevo già andare perché non fa stare il cazzo in un nuovo locale in quattro. Ah, non ti nasce. Lui, no, a lavorare così, no. A lavorare così non si può. No, a un certo punto non conviene, no. Ma il compagno avrebbe resistito, ma io no. Ah, non parlo. Certo, da 22 anni, che l'avevi girato a ballare in verso? Tutti nuovi girati. Cazzo di è il carattere che c'ho io, questo gli avrebbe messo già la mano addosso. Sì, vabbè, l'ho fatto per Angelo, perché a me ha sempre trattato bene, con rispetto. Adesso vediamo quando mi pagano, se mi pagano. Se mi fanno la denunzia, abbiamo la dietro. Chi stavi a pagare? A pagare già ti paga, non ti preoccupare, certo non ti paga. Se questo mi ci dà davanti un animale, praticamente è su stesso che mi ci dà lo stendito, io ho toccato la roba asciutta, lo stendino, a chi non veniva la cosa di appiccare la roba. E l'ho presa, l'ho levata e gliel'ho appoggiata sopra il letto, si è incazzato, non sono muore di mettere la roba, e lì è stato bussato la porta, e mi ha detto che mi dai Anna, vedi, e che non me l'hai zuccata. Si vede il guglione a via poco bocco. Non mi ha fatto lavorare di un guaio su Camilaiana. Pure di loro è fallo. Comunque io per non far casino ho rispettato le regole, che alla fine è quella una regola, e mi sono andato. Io vado l'udurno 23:07:30. Ho chiamato chi di dove è andato via. Poi ho caricato tutta la roba, poi ho buttato 30 euro di mezzo e mi sono rientrato da alle 10:30 sono partito da lì. Stavo a Sardegna, sono arrivato a Sassari a mezzanotte e più. Ma di Sassari? Dove sei? Di Nuoro, mamma mia! Porca di te, si crede anche se di Nuoro, deve fare cazzo da... Sì, ma bisogna stare attenti a chi va nel raso, giaghissimi. Già lo so che io ho vissuto 4 anni in quelle zone, lo so. Ma per quello Natale non me ne mettevo problemi, perché io non ci parlavo con quelli di Urbi, Urassai, tutti quella zona, quella raso che ho facile. Ma a me non mi sentava né. Sì, ma cioè, il discorso è che se ti serve uno stendino, tu mi pigli la roba, la pompa la sistemo io. Cosa cazzo vuoi? Ti piglio con la roba? Vai, cazzo, brutto fruscito, non sei altro. Un altro non mi ha sempre lui. Ma quelli sono così, quelli di nuovo sono così. Si fanno vedere che è potente. Mi ha fruscito, grazie, ma carità. C'è una basica sassa di Fluendo. Caccia proprio fu. E poi si fa la mamma la roba potente, avessimo il coraggio. Carità, cazzo, mi chiede Fucci. Tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Beh, Pompo, a un certo punto cosa devi fare? Dimmi tutto, dimmi. E ho detto, a un certo punto cosa devi fare secondo te? Ammata tutti, cosa devi fare secondo te? Boh, io per la bella sono andato bene, la verità. Quindi, a un certo punto, a me quando mi vedono, non posso ancora più, le piccolato le balle, grazie a Dio. Quindi non lo so. Comunque, quanto ci sei stato lì o lì? Un mese? Ma c'è un mese all'11 di maggio. Vabbè, tanto ti tocca, ricordi, fatti dirai. Poco più di 1.000 euro. Vabbè, visto che è... Quello che è... Io non ne ero che così, Quando fa le stagioni, sempre il coglionato tu visto. Sto cazzo di antennina, wifi o non fatti, sto sempre un ci fisso, cavalletta. E cinco, fuggito se ne. No, no, già è qui, cinco. Cinco, ci sei? Ispettore cinco. Quello sta affettando di brutto. Ah, buono, lo so io. Vabbè, Biondo, sto affettando sì, mi sto affettando un po' di cose, di pancetta, che devo fare un po' di pasta al carbonara, che stanotte è di andare. Carissimo, allora sto arrivando. Grazie. Sono pancetta, un po' di cipolla. Sì, sta arrivando. La balle. Ci metta, ma se si va a vedere, fai i coppiglioni. Beh, è pittina. E allora, quanto sto arrivando? Se non riesci a dar dolore, sarei arrivato sì. Ah, d'accordo, tu dai, non c'è problema per quello. Luca, allora te ne sei andato da Dravagliacca. Ma quel Macolino Condo non si è più fatto sentire. Quello lì sta ascoltando perché orecchie di porco, però non entra, maledetto. Oh yeah, su che andiamo, Sherlock! Sei qua! Ebbè, Piovino! Ebbè, aspettata, dai, tutta questa pancetta che... Ti baci in mano, ti baci in mano, ti baci. Ti cado i soggadurori, se non mi rivita, Dumiro. Ci ho messo il guanciale, no la pancetta, il guanciale. Isso vivo. Io burro la posso vera la carbonara. Solo che non posso farlo da che non posso essere manco dritto, non sul vasto dai cedurori. Gesù Cristo mio, mentre sono con bocci. Che è passato ancora? Poi mi devono ricoverare addirittura. Appena non ho neanche questo cazzo di referto della TAC che ho fatto a Olbia. A Olbia gioco 12 per fare una DAC. Dai tu. Meno male che ho trovato un amico e mi ha accompagnato, cazzo. A pezzi sono arrivato. Adesso sto aspettando il referto, appena c'è il referto lo diamo a questa dottoressa qua che mi fa ricoverare e mi deve fare una cistoscopia, mi deve fare. Ma anche io sono così, Natalia, faccio a perdere, anche io sono così, anche se mi sono operato, ridurori per altre. Lo so cosa vuol dire, lo so. Cazzo. Duro la rizzi, bene. No, ma guarda, lo sono dolori, quei dolori che ti fanno impazzire, però ce li hai sempre quelli lì. Fissi ce li hai sempre. quando ti inchini ancora a pigio, cazzo tanto di ravi, non ve la vai mai con cazzo alla parte di bici, fatti lo conto, che sei bici. Sì, già lo so, già lo so. È un casino, eh. Io invece ho questi dolori forti e sono a forza di brufen, capito? Ehi, ma appena che il gatto di bacchini, ti lo qui nello stomaco. Ehi, lo so, ma finché non mi ricoverei, già ne cosa capo, lo so. Cazzo, ti bacia dalla macchina e te me la lascia. Emanuele, ma non si può resistere con questi dolori così. Poi non dura niente l'effetto, non dura nulla. Perché ormai il corpo non reagisce più, ormai se a forza di bere la medicina cosa ti fate? Cesso, sono capito, gioco. Ormai anche io, quando prendo, che poi non ne prendevo tanto medicina, quando mi faceva più male prendevo qualche bustina, ma è come che non ne prendevi che non mi faceva nulla. Non mi faceva neanche le punture, facevo le punture prima di operarmi. E cosa mi faceva? Con cortisone, cos'era? Cortisone e mortale. Non mi faceva nulla. Dio, già lo so, già. Adesso sì, grazie a Dio, carino, anche prima non potevo manco camminare, mi bruciavano le gambe proprio dai dolori che mi veniva dalla schiena. Adesso, grazie a Dio, cammino. Prima fase due bassi mi devo abusare. Sì. Lo so, io abuso così, mamma mia. Non ne posso più. Cazzo, beh, a operarti, guarda che ti ha detto. Devo portargli questo referto della PAC, e poi mi fa ricoverare, ha detto. Oh, yeah. Ma vai da uno, io all'ospedale di Sassari non mi avrei fatto toccare. Si deve fare una citoscopia solo. Vai da voi, si deve operare. Alla secca bianca! Alla secca bianca devo andare. Sì, dove c'è mia nipote? Ma da Olbia devo arrivare, c'è un referto, devo arrivare. No, la schiena è brutta, il dolore di schiena è brutto, per chi ce li ha, non sa cosa vuol dire, per chi non li ha mai avuti non sa cosa vuol dire il dolore. Che roba vera è furughissima. Aspetta un attimo, la carne va sempre un attimo. Sì. Sarlo, non c'è nessuno.